Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telesi. Se mi mandano fuori dalla cassetta dove vado? Vediamo che qualcuno mi aiuti. Questa è nonna Giuseppina, che potrebbe essere la mia nonna o la nonna di tanti italiani. I nervi non riescono a essere freddi. Ha chiesto il permesso. Perché il nostro Stato, dove succede qualsiasi cosa, come dicevi tu, si costruisce fino in riva al mare, nella Valle dei Templi, dappertutto, si costruisce, però contro nonna Giuseppe lo Stato mostra il volto duro. Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula. Kafka si guarderebbe allo specchio e direbbe: ma che scarafaggi, in Italia hanno fatto peggio, cimici, calpestate senza dignità. Io ho 88 anni, cioè i concorsi universitari sono sempre stati così, le cattedre di medicina erano praticamente ereditarie. Non fare l'inglese, qua siamo in Italia. Cosa pensa lo studente universitario? Può pensare davvero di essere in un sistema in cui il merito è la cosa che conta? Io questi li esporrei al pubblico ludibrio. Complimenti per la trasmissione, un complimento soprattutto a Giannino, che condivido. Come soprattutto a Giannino? Lorenzo, mi fate la cazzo subito. Per noi le feste dell'unità e il simbolo dell'unità è un pezzo di identità, forse a Renzi e company interessa poco, a noi invece tocca perché è un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Ma non scherziamo, non è una storia comune. Cane e gatto è un amore odio, forse sono due poli che... Guardi, solo amore. Reach out and touch faith. Eccoci, popolo dei già svegli, buongiorno. Io ho attraversato la notte questa mattina, ma quanto è bello uscire dal buio. Ho camminato sotto i portici, sono passato davanti alla sezione del PD Squilino chiusa, sono passato davanti a Casa Pound con la bandiera, ho salutato i quattro barboni e sono venuto qui a lavorare per voi. Voi per quale motivo siete svegli? Raccontatecelo. E allora, grande giornata, sempre perché stanno accadendo tante cose in Europa, nel mondo. C'è la Catalogna che si separa, c'è la politica italiana in ebollizione, c'è Ryanair che cancella i voli. Sono tante le notizie da discutere e oggi lo faremo con un ospite speciale, Francesca Fornari, una satirica, è un'autrice, è una scrittrice, è anche un'autrice radiofonica. Buongiorno Francesca, ma quante cose sei tu? Buongiorno a voi. Troppe, perché io sono contro la specializzazione, preferisco saper fare 10 cose male piuttosto che una bene. Geniale, questa è da antologizzare. Allora cominciamo come sempre con il fritto misto della giornata che bolle in pentola. Briatore! Dov'è Briatore? Lo stipendio minimo che abbiamo ad esempio a Monte Carlo sono 2000 euro al mese. Come fa? Io poi non capisco tutto sto casino che ha fatto sta roba qui. No, perché io lei dico, ha detto come si fa a vivere con 1000 euro. Ma io dico, ma scusi, purtroppo tante persone. No, ma purtroppo se io faccio dei conti, che non sono un ragioniere, ma se io dico una famiglia normale di 2 persone, 3 persone, vive a Milano, pagherà 400-500 euro al mese d'affitto, giusto? Avrà la possibilità, dovrà andare a accompagnare i figli a scuola, dovrà avere una scuola. Cioè non riesco a capire, sono bravissimi, non riesco a capire come si possa vivere con questi soldi. Vivono con difficoltà. Era Carta Bianca, continua con la sua meravigliosa campagna. Lo stipendio minimo a Monte Carlo è 2000 euro al mese, non c'è niente da fare. E Laura Boldrini. Chi si ispira ancora oggi, purtroppo, al ventennio, non può in alcun modo rivendicare patriottismo. Quindi anche sulle parole stiamo attenti a non farci espropriare dei concetti come quello della patria, che è un concetto bello, alto, nobile, molto diverso da quello del nazionalismo. Entra sempre lì nelle cristallerie e rompe qualche vetro. Vincenzo Boccia, Presidente. È evidente che abbiamo svoltato pagina, i numeri sono oggettivi, lo dicono, ma dobbiamo stare attenti perché siamo all'inizio, siamo alla prima pagina e quindi dobbiamo continuare un percorso di riforme. L'errore è dietro l'angolo e non dobbiamo fare l'errore storico in questo paese in cui, come abbiamo la percezione di aver superato la fase di crisi, cominciamo a fare politiche che aumentano il deficit e non aumentano la competitività delle imprese. E su tavoli economici che sono tuttora aperti, queste parole dicono bene il senso dell'allarme. E guardate invece cosa dice Fausto Bertinotti: all'aria che tira, ieri si è arrabbiato, proprio è andato a fare un frontale con Matteo Renzi. L'uomo è giovane, non è necessariamente indotto a studiare la cronaca del paese, però dopo la caduta di Prodi... Sei andato ignorante, Maria Elena Boschi è tornata alla festa dell'Unità di Roma, non lì, i nostri microfoni a carpire le sue dichiarazioni. Pensate, è intervenuta anche su Di Francesco, sulla Roma e su D'Alema, un bel triangolo. Perché intanto la Roma ha vinto fuori casa in Champions, ha vinto, pensate un po', 2-1, e non vinceva dal 2015 fuori casa, quindi un grande successo. Vabbè, questa Boschi la recupereremo, era interessante perché, come sapete, c'è stata una polemica, un fuori onda di D'Alema su Di Francesco, Di Francesco che ha detto a D'Alema: imparerò a vincere, e poi è intervenuta lei. Va bene, Meb, Francesca Fornario, sei lì? Eccomi. Tu la mattina di solito come ti svegli? Con le cannonate normalmente? No, mi sveglio con il caffè, ma io ho la fortuna di andare in onda molto dopo di te e di voi, quindi per me è più facile, devo dire. Ho il lusso di svegliarmi quasi senza la sveglia. Ah, questo è meraviglioso. Allora, delle cose di oggi, ce n'è una che non era qui, ma è un tema dei giornali, la secessione catalana. Che impressione ti fa? Perché... è un tema molto controverso, è la prima secessione di sinistra d'Europa, diciamo. È un tema controverso, infatti la sinistra, quella vera, si è staccata anche qui nel giudicarla, perché è una secessione all'interno della quale c'è anche la rivendicazione della sinistra, però è la secessione della zona più ricca del paese e quindi insomma è facile risolvere così il problema economico, no? Dicendo noi che siamo il Veneto facciamo secessione perché abbiamo più soldi di voi, e quindi è complesso capire da qui perché non è paragonabile ai movimenti secessionisti italiani. Quel che è certo è che sono incomprensibili e sono davvero un autogol gli arresti politici, perché poi appaiono così, è incredibile, no? Che non si riesca oggi, la notizia di oggi è che il governo centrale potrebbe addirittura arrestare il capo, diciamo, della Catalogna, esatto, il presidente dell'autonomia catalana, quello che ha indetto il referendum. È uno scrittore, però certo, poi sai, andiamo a esportare la democrazia e diventa complicato poi spiegare. Forse non so, ma sai che un grande scrittore spagnolo, Xavier Cercas, oggi sul Corriere della Sera dice: è un colpo di Stato, voi da fuori non l'avete capito bene, ma è un colpo di Stato che ha violato la Costituzione. Il tema è complesso, però poi le Costituzioni sono lì per rappresentare la volontà popolare, no? Non dimentichiamoci, quindi... la Costituzione, anche per restare fedele a se stessa, deve cambiare, tant'è che poi il governo centrale in realtà era disposto, adesso troppo tardi, ma poi meglio troppo tardi che mai, a concedere quello che i catalani chiedevano da tempo, no? Quello che quindi la quasi autonomia che era richiesta all'interno della Costituzione vigente. Senti, lo sai che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, è stato costretto dalla Merkel ad accettare il ruolo di ripiego, quello di presidente del Parlamento, perché la super poltrona di ministero economico sembra destinata ai liberali, quindi saranno ancora più severi con l'Italia, ma non è che rimpiangeremo l'uomo duro di Berlino? No, infatti ho detto, i tedeschi hanno confermato anche la Merkel perché hanno ritenuto che abbia governato bene gli italiani e i greci. Perché ha governato bene gli italiani. Esatto, e i greci anche, perché sì, ricordiamoci che le banche greche hanno guadagnato un miliardo e mezzo grazie ai cosiddetti aiuti, le banche tedesche hanno guadagnato un miliardo e mezzo grazie ai cosiddetti aiuti alla Grecia. E quindi sì, adesso c'è da temere che sarà ancora peggio, no? Che non ci sarà nessun possibile sforamento dei vincoli di bilancio, e quindi la Rentonomics forse c'è più in difficoltà adesso. Senti, la politica italiana è in completa ebollizione. Ora, l'ultima notizia del giorno, sembra che si stia facendo un grande sforzo per avere un centrodestra con il partito di Alfano, ma senza Alfano, lo rivendica Lupi in un'intervista, e un centrosinistra con un partito di ulivista animato da Pisapia, ma forse anche senza Pisapia, e questo non è ancora ben chiaro. Come si fa a spiegarla la politica italiana in satira? Bisogna dare il 50% della SIAE e Alfano a Renzi. Del resto, quando Renzi ha detto, l'avete citato nella vostra introduzione, ha paragonato Bersani a Bertinotti. Cioè, capisci che cioè, neanche la satira, no? Ha paragonato Bersani a Bertinotti perché ha detto: ma noi non siamo quella sinistra lì, la sinistra che fa cadere i governi e poi vince la destra. Infatti, ha detto: no, voi siete direttamente la sinistra che fa i governi con la destra. E quindi Bertinotti giustamente si è arrabbiato si è arrabbiato con Renzi, sì. E come fai a spiegarla questa roba? E, quando poi ieri c'era il titolo su Repubblica e raccontava questo rassemblement sinistra che dovrebbe ogni giorno viene annunciata la nascita, no, di questo nuovo soggetto politico, che già dire il nuovo soggetto politico con dentro Bersani, D'Alema e Pisapia, già questa parola nuovo fa ridere. Ma insomma ogni giorno si annuncia la nascita di questo soggetto che poi non nasce mai, che poi non nasce mai, no, perché c'è sempre appunto Rifondazione che aspetta Sinistra Italiana, che aspetta MDP, che aspetta Pisapia, che poi aspetta il PD, che aspetta il Fano. Quindi siamo tutti un po' ah attesi, bella, no? Questa sì è la catena della lista d'attesa, per far ridere, però è così, non però è stato, un uomo nuovo della CIA è loro. Un uomo nuovo guida la commissione d'inchiesta sulle banche, Pier Ferdinando Casini. No, però Casini è un uomo di mondo, è un piccolo genio, è un Highlander. Immaginiamo che Casini è quello che voleva dare un bonus a chi mette su famiglia e due bonus a chi ne mette su due, avendone lui due. No, questa è cattiva. Ma si possono fare le battute sul privato, Francesca? Ma il privato è politico, e se uno fa proprio le battaglie per non concedere il diritto di sposarsi da omosessuali, è però una desiderata del Vaticano, che giustamente fa il Vaticano nella vita, dice quello che deve dire un Papa, era poi però se non è credente nel privato. Senti, è più facile fare satira su Renzi o su Berlusconi? Facciamo proprio un esempio in diretta. Ma Renzi si presta, diciamo, era facendo la satira che comprendeva anche chi proprio non sapeva nulla della politica, perché la gran parte della satira di Berlusconi era purtroppo tutta sul fatto che Berlusconi aveva una predilezione per le giovani donne, che a me non è mai parsa la cosa più grave di Berlusconi, no? Poi ci si giustificava dicendo che questo lo rendeva vulnerabile e ricattabile, ma insomma rispetto alla collusione con la mafia, alle politiche di destra dei governi Berlusconi, al conflitto di interessi, non era certo questa la cosa più grave, però per le battute era una mamma, no? Rubi, la nipote di Mubarak, insomma, anche questo era satira fatta in Parlamento, che ha votato credendo che Rubi fosse la nipote di Mubarak. E invece Renzi? Per far ridere. Renzi, ecco, fare satira su Renzi però è sicuramente più divertente, intanto perché c'è una fondamentale differenza tra i due, e Renzi l'ha detto bene quando Renzi ha detto: ho sbagliato a farla troppo facile, cioè io avrei dovuto spiegare meglio le difficoltà che abbiamo affrontato, e ha ragione, perché guardate che se era così facile cancellare l'articolo 18 e c'è riuscito Berlusconi da solo. Invece la grande differenza è che Renzi le cose le fa, ecco, cioè Renzi o Berlusconi che le cose le fa, quindi anche per la satira tu hai continuamente nuovi argomenti, no? E hai i voucher, e quindi devi spiegare lo scandalo di questi lavoratori che lavorano, che guadagnano in media 500 euro all'anno e non al mese. Hai appunto le riforme costituzionali, la cancellazione del Senato, salvo che adesso Renzi poi vorrà farsi eleggere in Senato, quindi ha fatto bene a non abolirlo, gli è andata bene. Hai i soldi regalati alle banche, alle imprese, l'equivalente di due finanziarie per assumere i giovani, poi finiscono i soldi dati alle imprese e finiscono anche le assunzioni, il 97% dei nuovi contratti sono a termine, quindi insomma arriva sempre nuovo materiale, no? Per spiegare il fatto che sostanzialmente i lavoratori italiani sono messi così, un giovane su due sogna di andare a vivere all'estero, non è una cifra sparata, è proprio un giovane su due secondo. E l'altro già ci sta. Esatto, no? Quindi dico, aiutiamoli a casa loro, no? Come si dice in questi casi? Sì, sì, i nostri, gli italiani, aiutiamo gli italiani, i giovani italiani a casa nostra. Esatto. E invece chi è l'altro grande soggetto? Alfano, si può fare satira su Alfano? Facile, no, la satira su Alfano è facile, direi, faccio su Alfano quasi meno battute di quelle che vorrei rispetto a quelle che vorrei, perché poi uno un po' si accanisce anche rispetto all'importanza della figura e quindi... Oggi ha fermato lo Ius Soli, insomma, ha contato. Esatto, infatti. Ha fermato Ius Soli perché ha detto, poi è stato meraviglioso, ha detto non è una cosa giusta, ma ha fatto il momento sbagliato, cioè lui ritiene che sotto elezioni sarebbe deleterio allargare la platea di quanti non votano Alfano, lo capisco. Una cosa giusta nel momento sbagliato. Ci fermiamo un attimo per le strade e torniamo subito con Francesca Fornario. Cimici, calpestate senza dignità! Mattino. I già svegli. E sveglio presto sempre lei, Speranza? Ma sempre no, diciamo la verità. Oggi sono sveglio presto perché è una giornata molto intensa. Però vedo che attivo la mattina, rassegna stampa, Twitter, insomma è al bioritmo accelerato, no? Ci tocca leggere i giornali all'alba e anche ascoltare qualche trasmissione radiofonica. Ma Luca, io sono già sveglio perché vado a lavorare. Sono anni che seguo questa trasmissione. E allora buongiorno, buongiorno a Matteo Orfini, il nostro prossimo ospite. Buongiorno. Presidente del Partito Democratico, già sveglio stamattina per un bellissimo motivo, raccontiamo. Possiamo? Sto facendo l'inserimento al nido della mia seconda figlia. E cosa si imparano in questi, si impara in questi giorni, diciamo, di trepidazione si e di socialità? Perché le figlie si accorgono dell'esistenza del padre, mentre di solito, diciamo, pensano solo alla mamma. Quando tocca a noi di lasciarle dentro una scuola, ovviamente si disperano, e la prima volta che si accorgono di noi, noi soffriamo perché le dobbiamo lasciare. Stamattina alle 5 ho già governato le vacche giù la stalla. Sto anche a preparare un po' di zappe da 7 kg, eh. Spero che prima o poi le faremo adorare i nostri politici, tanto simpatici. Ciao Telese, ciao. È cult, eh? Governato e preparato le zappe. E ovviamente questa è l'Italia, il grande affresco dell'Italia che va da Orfini che inserisce la sua bimba nell'asilo, un papà quindi positivo, al nostro coltivatore che prepara le zappe pensando alla politica. E Francesca, volevamo farti sentire questa Boschi perché non sia mai che ci dimentichiamo di lei, Maria Elena. Credo che forse la cosa migliore su D'Alema l'abbia detta l'allenatore della Roma. Io sono milanista, quindi, però devo dire che sono d'accordo con l'allenatore della Roma. Quindi non c'è molto altro da aggiungere. Secondo me si è già detto tanto su D'Alema. E mentre parte la mitica Aretha Franklin, ti chiedo sulla Boschi, perché hai visto, fa satira, eh? Attaccato D'Alema usando Di Francesco. Satira però alla fine, perché era anche quella satira. E sì, devo dire che sconfinano questi politici. Sì, ed è facile insomma attaccare D'Alema dicendo che deve imparare a vincere, perché in effetti è uno che è diventato presidente del Consiglio grazie alla manovra di Palazzo, prendendo il posto del presidente del Consiglio che c'era prima. Cioè, questa, stavamo parlando di Renzi o di D'Alema? Stiamo parlando di Renzi. Chiediamo a Maria Elena Boschi. Ma la Boschi com'è? Com'è cosa, ma l'inserimento al nido a Roma si deve fare alle 6 di mattina? Perché siccome soltanto un bambino su 10 trova posto al nido, allora l'inserimento è proprio entrare fisicamente, sfondare, sperare occupare il nido, piazzarsi prima di 9. No, è bello però, è un momento, su questo non si possono fare battute, perché è un momento molto bello e mi piace che sia un padre a farlo. È un segno di progresso sociale, oserei dire. Senti Boschi sulla scissione. La scissione sicuramente è stato un piacere per tutti, indubbiamente, però forse ha fatto anche chiarezza rispetto a compagni di viaggio che avevano ormai obiettivi diversi, strade diverse, e io credo che l'importante per noi sia ritrovare le proposte del PD. Capito, è contenta, praticamente tradotto dal politichese, sono contenta che si sono levati dalle scatole della sinistra. Comunque sono d'accordo che sia stato giusto, cioè finalmente ne abbiamo parlato per anni di questa mitica scissione del PD, no, era giusto che alla fine si dividessero da un lato la Margherita e dall'altro la DC. No, questo è troppo cattivo. Ma non mi hai detto nulla sulla Boschi, ti piace come soggetto, ti ispira? Guarda, la satira e la Fornario può passare per una donna. A favore della Boschi, così lo faccio in virtù del fatto che le donne saranno in piazza oggi e sabato, quindi per solidarietà con la categoria, le donne, ricordiamo, saranno in piazza oggi contro l'aborto e sabato, manifestazione convocata dalla CGIL, invece sempre a tutela dei famoso corpo delle donne. Poi magari facciamo quella manifestazione invece in cui parliamo di lavoro. Allora dirò di Marina Zambotti, che alla fine è l'unica che poverina ha pagato la sconfitta al referendum, cioè prima il referendum se l'ha intestato Renzi nel referendum sulle riforme, dicendo proprio personalizzando il voto, no, dicendo se perdo vado a casa, ma non vado a casa per un giorno, proprio mi ritiro a vita privata, vado a coltivare le ortensie. E poi invece dopo la sconfitta al referendum in realtà è l'unica che è stata tenuta proprio in quarantena lontana dalla televisione per giorni, per riflettori per mesi, è stata la ministra delle riforme Marina Boschi, che certamente non era stata la vera autrice delle riforme, no, né colei che aveva voluto il referendum. E quindi ecco, insomma, spezzi un lancio anche troppo rispetto alle responsabilità che ha avuto. Benissimo. I 5 Stelle, Di Maio, anche lì per la satira, ragazzi, la fanno da soli, no? Cioè? C'è Roberto Fico che ha detto che lui ha deciso proprio autonomamente di non intervenire sul palco alla convention 5 Stelle a Imola perché Beppe Grillo non voleva che intervenisse sul palco. Ha deciso autonomamente, però ha deciso lui. Sì. Poi gli altri? Di far decidere Beppe Grillo. Ma diciamo che i 5 Stelle la satira ce l'hanno proprio nello statuto, no? Perché avere un partito che proprio per statuto è nato con uno statuto. Sì, col simbolo depositato dal notaio, da un privato. Sembra tornare alle cronache quando c'erano, non so, quei personaggi leggendari tipo Pizza, te lo ricordi Pizza e Lobbista? No, che era quello Pizza? Che si andava a registrare tutti i simboli dei partiti. Ah, sì, Pizza, l'ex segretario della Democrazia Cristiana, ottuagenario. Esatto, un po' come si faceva con i domini dei siti, no? Che uno sì, appena dice, non ci sia mai, quando qualcuno verrà in mente di rifare la Democrazia Cristiana, che tanto la rifaranno, prima o poi qualcuno verrà anche in mente di chiamarla così, di nuovo dovranno pagare me. Beh, i 5 Stelle sono nati un po' così, no? Con lo simbolo depositato, con la possibilità di espellere le persone da un partito con una valutazione democratica all'interno del cervello di Beppe Grillo e poi con un post-pittum sul post di un blog. Ma dai, non avremmo mai immaginato una roba del genere 10 anni fa, no? Possibile nel primo partito del paese. È il progresso, il futuro, no? Eppure è così. E chi c'è rimasto? Chi ti piace ancora sulla scena? Non fai neanche una battuta su Salvini? No, anche su Salvini è troppo facile le battute, però invece su Salvini voglio dire una cosa seria. E cioè che credo che la sinistra stia sbagliando un po', cioè la sinistra, diciamo, decidiamo quelle parole, il Partito Democratico stia sbagliando l'analisi su Salvini, perché sono convinti che Salvini stia guadagnando voti grazie al fatto che se la prende con i migranti e che è l'ossessione della sicurezza, tant'è che per inseguire gli elettori di Salvini hanno fatto cose tipo dare il permesso di sparare ai ladri di notte, che è stato un compromesso, tant'è che Salvini poi era contrario alla legge perché di notte poi i neri non si vedono, no? Quindi dici che così, è una sicurezza a metà. Però io invece penso una cosa, che nessun italiano si sentisse insicuro perché non poteva sparare alla gente di notte. Gli italiani continuano a sentirsi insicuri, si sentono insicuri perché hanno un lavoro precario, guadagnano troppo poco, invece ci sono 6 milioni di lavoratori poveri, cioè persone povere anche se guadagnano, che è incostituzionale, no? Perché la Costituzione dice che il lavoro dovrebbe essere un'attività che dà diritto in ogni caso a una retribuzione che consente un tenore di vita decente al lavoratore e alla sua famiglia. Bene, e Salvini in realtà queste cose le dice continuamente, martella su questo e martella sulla legge Fornero, quindi sull'ingiustizia del fatto di andare in giustizia più tardi rispetto a tutto il resto d'Europa. Quindi attenzione, perché Salvini matura consensi per questo e anche tutte le volte che parla, cioè dice il Salvini sociale che guadagna consensi, certo, è l'unico leader che dice che bisogna proprio abolire il Jobs Act. Esattamente, non fare il tagliando come suggerisce adesso quella che viene raccontata come l'unica sinistra esistente, cioè quella sinistra proprio estremista. Facciamo il tagliando. Naturalmente c'è molta altra sinistra, ma non viene raccontata. Ieri c'era su Repubblica anche una foto meravigliosa dove nella foto in realtà appariva anche il segretario di Rifondazione Comunista. Chiedo agli ascoltatori, quanti di voi sanno come si chiama il segretario di Rifondazione Comunista? No? Tutti voi conoscevate Bertinotti, conoscevate Ferrero, c'è ancora un segretario, si chiama Maurizio Acerbo. Ieri su Repubblica c'era la foto tagliata proprio a metà, quindi proprio come le foto del regime sovietico, dove venivano tagliati i personaggi scomodi. Bene. C'è anche una sinistra fuori da quella che viene raccontata di e chissà chi riuscirà a trovarla. Grazie Francesca Fornario. Grazie GR Strade in diretta, e cominciamo con la rassegna stampa. Ciao papà, sei obeso.